vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di sedere. Puntata numero 21 di Ratto di Campagna Topolino di Città, qui su Radio Big World, per voi provinciali, per voi che ancora andate a letto quando vanno a letto le galline e vi svegliate quando canta il gallo, che poi è un mito che il gallo canti all'alba, perché in realtà il gallo canta tutta la notte, lo strozzassero. Per voi che il paio di scarpe più usate è ancora quello degli stivali Chantilly per andare a annaffiare l'orto la mattina, ebbene questo programma cerca di darvi un po' di bon ton. Ma sì, Baldassarre Castiglione scrive il cortegiano e Monsignor della Casa scrive il galateo per insegnare a gente pur ricca ma molto rozza a comportarsi, oggi che viviamo in questo mondo iperconnesso, autostrade virtuali, siamo dappertutto. Ebbene, fare la figura ancora degli ortolani non si addice più a noi. Pertanto abbiamo in Firenze, nella capitale, nella città della cultura, nella Babele mondiale di scoperte e di invenzioni rinascimentali, perché poi dopo sì, qualcosa è stata inventata, ma diciamo un po' più di sottobanco. Insomma, da Firenze direttamente per noi, per gli ascoltatori di Radio Big World, Laura! Ehi, ciao Giorgio, ciao a tutti! Laura, oggi è importante cercare di capire come si compra a Firenze, perché questa selva di negozi, insegne, ipermercati, centri commerciali, probabilmente è difficile orientarsi e per noi provinciali è più facile prendere delle fregature. E partiamo parlando dei generi di prima necessità, oggi, oddio, anche di seconda o di terza, che sono i generi alimentari e il vestiario, poi le macchine, i telefonini, insomma, magari ne riparleremo in altro momento. E gli alimentari, la prima cosa che mi viene in mente è supermercato o bottega. Quale scelta operano i fiorentini quando si parla delle cose che loro mangeranno? Partendo dal presupposto che insomma il risparmio è sempre in cima ai pensieri del fiorentino, il supermercato va per la maggiore. Poi pullulano i supermercati, cioè, anche se non proprio in centro a Firenze, ma appena fuori, insomma. Se pensa all'Esselunga del Galluzzo, quando è stata qua, ci hanno messo un sacco per costruirla, ma insomma da quando l'hanno fatta è sempre piena. Piace ai fiorentini andare al supermercato, cioè quando ne aprono uno nuovo, andiamo a vedere com'è, cioè come se fosse chissà cosa, come se fosse una mostra, non lo so. Piace il supermercato. Però in linea con questa tendenza negli ultimi anni della ricerca del prodotto tipico, hai visto insomma ora va anche di moda, no? Lo slow food va di moda, il cibo più di nicchia, sicuramente di ottima qualità, per il quale siamo disposti a spendere di più, ha il suo perché andare all'alimentari e insomma cercare questo prodotto che può fare la differenza, soprattutto se uno ha ospiti e dice: ah, ti ho preso il il culatello di Zibello, insomma, dal macellaio qua, il più famoso macellaio della zona, insomma c'ha una marcia in più se lo offri a cena. E poi è carino anche andare nelle botteghe del quartiere per riacquistare un po' quella familiarità, quel rapporto personale, la dimensione paesana che comunque è sempre un bel elemento. E se te c'hai le botteghe vicino casa, forse vai per comprare piccole cose, vai lì. Poi per fare la grande spesa vai sempre al supermercato. Poi invece c'è chi abita in quartieri puramente residenziali senza botteghe vicine, allora cioè se prendi la macchina tanto vale andare al supermercato, no? Fai tutto lì, fai prima. Però se c'è una macelleria più raggiungibile a piedi, insomma, la carne qua è migliore. Se c'è la pescheria raggiungibile a piedi, insomma, qualche cosa ti compri pure lì. Quando negli anni 80 venivo a Firenze con la mia famiglia, si veniva ai supermercati perché a Firenze erano enormi e da noi in provincia o non c'erano o erano allora in fase di costruzione o addirittura erano solo nei progetti delle giunte comunali, perché poi ovviamente i supermercati arrivarono ma solo di un tipo e solo di una organizzazione. Vabbè, si veniva a Firenze a vedere questi grandi supermercati, o perlomeno ci sembravano così, ancora non esistevano le iper qualcosa, gli ipermercati, ma poi passeggiando per il centro si vedeva tutte queste botteghine, il vinaino, il panino, il macellaio, il pesciaiolo e gli altri che c'erano, gli alimentari in senso lato. E mi domandavo fin da bambino chi andrà in queste botteghe, nel senso che sembravano carissime. Ora, ci saranno quelle super famose, ce n'è in provincia che sono carissime, ma ci saranno quelle super care dove anche una fetta di salame costa almeno un euro e mezzo, ma ci saranno anche quelle che invece hanno prezzi popolari. La domanda è un mito, è un'immagine che mi sono fatta io del fatto che a Firenze qualsiasi cosa comprata a bottega è più cara, oppure anche lì c'è da valutare caso per caso? È tutto più caro nelle botteghe, per questo che hanno preso piede i supermercati, cioè, i ricchi commercianti che prima appunto si vendevano una fetta di salame a 10.000 lire, poi dopo, poveracci, hanno visto sparire la gente perché al supermercato effettivamente si risparmiano cifre incredibili. Poi insomma la cosa è un po' andata, cioè c'è un po' sfuggita di mano, no? Hai visto tristemente, sì, perché dai, tutti questi centri commerciali, questi supermercati, vedi queste botteghe, cioè veramente belline, dai, anche chiedere, non lo so, prosciutto al tuo commesso di fiducia, lui te la fetta e ti racconta da dove viene e ti fa la storia, e insomma è tutta un'altra cosa. E allora fortunatamente a Firenze qualcuna si mantiene, perché insomma siamo in ogni caso in una città, beh, insomma, dove la gente gira, la gente compra, ma sai cosa succede? Queste bellissime botteghe fiorentine sono state un po' fagocitate da pakistani, cinesi, kebabari, cioè passi in certe zone del centro e dici ma dove siamo, a Firenze o altrove? E lì sì che risparmi, vai, cinesi, sì, poi vabbè, molto spesso entri in questi negozi dei pakistani, cioè ci entri proprio, secondo me, se sei alla frutta, cioè se non hai veramente niente da mangiare a casa, tutto il resto è chiuso, cioè non dici oddio che faccio, cioè, apri il frigo che ti fa l'eco, è vuoto, magari sono le 9:30 di sera, è tutto chiuso, invece loro sono aperti, no? Giocano su questo, sugli orari, perché se dovessero giocare sulla qualità, per carità. E quindi allora insomma scendi, poi magari ti compri, non lo so, una pasta di una marca impronunciabile, o ti compri un pacchetto di biscotti che poi vedi è già scaduto da 3 mesi. Però insomma, a male estremi, estremi rimedi, se non c'è altro, secondo me, però sono da evitare questi. Poi un giorno magari arriveremo a una situazione tipo New York, dove certi supermercati sono aperti anche la notte, però no, forse non ci arriviamo noi, perché qui i commessi giustamente protestano, già si devono stare aperti la domenica, i giorni festivi, insomma iniziano un po' ad alterarsi e come dargli torto. Lo faranno i pakistani o i cinesi, alla fine anche a New York, se hai presente il film Fa la cosa giusta, ogni etnia ha un suo business, e per esempio i coreani sono tutti fruttivendoli, per cui probabilmente tra un po' la signora fiorentina che fa quante gnene do, 3 etti ardito, probabilmente ci sarà il pakistano che dirà quanto dale, non lo so, una cosa di questo tipo, e è bene sia così, se così si sta muovendo il mondo. Ma lo sai il fiorentino, la bottega del fiorentino, no? Da cosa è caratterizzata? C'è una frase che nessuno capisce, però ti chiede, no? Quello che ti ha affettato il prosciutto, hai preso 2 o 3 cose, ti chiede altro? Nel senso, vuoi altro? E non sai cosa risponde il fiorentino? Cosa? Altro, come per dire, nient'altro. E invece uno c'era un milanese, dice altro, nel senso sì, poi 1 chilo di pane, 2 agli, e invece il fiorentino dice altro per non chiedere più. E il cinese dirà alto, quindi non lo so se si potrà andare avanti con questo. Comunque, aperta e chiusa parentesi. ho avuto l'esperienza di comprare in un negozio indiano, perché era tardissimo e serviva una bottiglia di vino, un invito a cena all'ultimo momento, e ho comprato un gallo nero da questo indiano. Per cui sono andato a cena, ho messo la bottiglia insieme alle altre e poi qualcuno ha detto: chi è che ha comprato questo vino da autogrill? Non so se magari mi aveva visto entrare dagli indiani. Tra l'altro credo che il vero business di tante di quelle botteghe sia riciclare il nero di certi business che certe particolari etnie, o d'altra parte così è, basta leggere i giornali, o anzi basta dare un'occhiata fuori dalla finestra, insomma certi business sono in mano a certe etnie. Secondo me comprano tipo a penny o a discount qualche prodotto, vedono il prezzo, lo triplicano e poi te lo rifilano a te, fanno così. Ma a parte i negozi che non sono etnici, insomma questi negozi di alimentari di basso livello, perché così sono, ci sono anche quelli di livello, quelli magari dove va l'americano a comprarsi il prosciutto. Quali sono, se ci sono, le botteghe dove c'è scritto acchiappa turisti e invece quelle botteghe dove, pur essendo botteghe, i fiorentini vanno e i fiorentini sono trattati da fiorentini? Ora non ti posso fare nomi, però forse in centro ci sono pochissime, oppure non ci sono proprio queste botteghe, perché il centro alla fine è in mano ai turisti e questi campano sui turisti. Quelle di quartiere, fuori dal centro, i residenti sono la clientela abituale, quindi insomma sono trattati bene. D'accordo. E ora una domanda un po' spinosa effettivamente per noi toscani in generale, e cioè, e per i fiorentini in particolare, perché proprio a Firenze il proprietario dell'Esselunga, stufo secondo lui di tutta una serie di angherie tanto commerciali quanto politiche, uscì con un libro intitolato Falce e Carrello, dove puntava il dito su Mamma Coop. Mamma Coop, perché Mamma Coop è dappertutto, è un logo conosciutissimo. Chi era bambino negli anni 80 lo associa addirittura a Peter Falk e al tenente Colombo. Pensate, negli anni 80 fecero venire questo dall'America per fare lo spot della Coop, il giornalino della Coop dove c'è l'offerta tipo trota a 2 euro, è lettissimo in Toscana, è il più letto, tanto che gli editoriali sono di ministri, rettori di università, cose dell'altro mondo. Insomma, a Firenze Coop o altro? Innanzitutto, diciamo che si dice la Coop, perché voi provinciano intanto dite il Coop. Il Coop. Il Coop, e vabbè. La Coop piccola, perché... il Coppino. Il Coppino, esatto, esatto. Allora, iniziamo da giusto genere. Io sono sempre cresciuta a Esselunga, per il semplice fatto che ero vicino a casa, i miei andavano lì e ci andavo pure io. La Coop era un po' più lontana. Tanto che io pensavo che supermercato uguale Esselunga oppure Coop. All'epoca non ce n'erano tanti altri, però per me andare all'Esselunga voleva andare al supermercato. Quando ho scoperto che l'Esselunga da Arezzo in giù non esisteva, parlando con un romano, vabbè, che vai all'Esselunga? Lui, dove vado? Ecco, mi è caduto veramente un mito. Poi forse Caprotti, proprio lui, quello che è morto a 90 anni, no? Il patron, sì, dell'Esselunga, ma ha ascoltato, infatti ha iniziato a espandersi. Insomma, l'Esselunga sta prendendo piede anche altrove. La Coop, ma sinceramente, ci sono quelli che per motivi politici proprio non ci mettono piede. Io non voglio entrare nel merito. Vabbè, perché no, dai, alla fine. Secondo me ogni supermercato si caratterizza, cioè ha dei punti forti, dei punti deboli, e poi dipende se cosa cerchi. Ma hanno detto che la Coop di Figline, per esempio, sì, si imbrocca bene. Allora, cioè è proprio un luogo, non lo so se sono veramente scoccati degli amori. E allora uno può andare alla Coop anziché all'Esselunga semplicemente perché vuole imbroccare, che ne sai. D'altra parte oggi si gioca sul servizio più che sul prodotto, quindi esatto, probabilmente un supermercato, esatto, dove si imbrocca è pieno di gente, dato che sì, i single, sì. No, ecco, seriamente insomma, parlando veramente sul serio, si gioca più sul servizio e sul prodotto, quindi insomma la Coop e l'Esselunga si fanno la guerra a colpi di gadget, di punti, di tagliandi, di regali, insomma alla fine si può prendere il meglio sia di qua che di là. ma senz'altro, anche perché oggi la politica probabilmente c'entra fino a un certo punto. Ma non ci precludiamo niente, ma dai caro, sia io che te siamo aperti ad ogni eventualità, che ci frega. Poi io, in buona sostanza, quelle sono quasi tutte società per azioni o similari, per cui alla fine il denaro non finisce in tasca a noi, anzi, dalle nostre tasche se ne va. Adesso però, come si vestono i fiorentini? Ora, come, nel senso, lo abbiamo cominciato a imparare, ma dove comprano i fiorentini i vestiti? Vanno nelle boutique del centro, da Cavalli, da Valentino, da Valenciaga? Sì, a vedere, a farsi un'idea. Poi vedono il prezzo e magari cercano su internet un'imitazione buona e lo comprano da internet. O se no vanno in centro, però ecco, evitando queste vie tipo via Tornabuoni, dove devi mettere mano al portafoglio in maniera eccessiva. Ritorniamo sempre lì, insomma, e ci facciamo conti in tasca. E allora si rivolgono a negozi più abbordabili, però insomma è sempre bello fare la passeggiata in centro a guardare le vetrine. Poi se compri o non compri, quello insomma è il meno. Quindi i vestiti si acquistano, ecco, in negozi che non sono in centro o che sono in vie non particolarmente alla page. Esatto, sì. Sì. Vabbè, se uno vuole fare un giorno, se vuole proprio fare un regalo, se lo può anche concedere, ma non è quotidianità. O se no, sa che si fa? Si viene in provincia da voi, dove sono nati come funghi questi outlet fantastici per gli amanti dello shopping. Partono i pullman di giapponesi che insomma invece di visitare gli Uffizi vengono a vedere il demollo da voi, dai, va. storie incredibili. Qualche fiorentino ogni tanto si unisce. Secondo me lo sviluppo della provincia negli ultimi anni è stato, insomma, come confermerai, è stato strettamente collegato alla nascita di questi outlet incredibilmente attira gente, che poi veramente io dico dopo un po', ma è Firenze che si espande, The Mall e questi altri grossi centri commerciali del lusso sono alla fine più o meno nello stesso posto dove qualcuno aveva pensato di fare lo stadio della Fiorentina e la Milanello della Fiorentina, per cui alla fine vedi che piano piano Firenze ci sta ingurgitando. E tra l'altro storie a The Mall incredibili, tipo dopo la legge Monti, cioè che le transazioni da più di 1000 euro non sono fattibili in cash, c'erano cartelli in varie lingue in questi negozi che non accettavano più di 1000 euro cash, e c'era questi cinesi, raccontato da chi ci lavora, che avevano portafogli pieni, ci avranno avuto 10, 15, 20 mila euro spiccioli, incredibile, perché chissà, dice, oddio no, in Cina una volta pagavano con i pezzi di carta con la faccia di Mao, ora pagano quasi tutti col telefonino, sono venuti qui, dice, sarà, sai, questi sono arretrati, veniamo qui nella terra di mezzo e sti foglioni nel portafoglio, incredibile. Ma questi sono centri commerciali, insomma, un po' per ricchi turisti o per farlocchi che hanno soldi da spendere, perché poi alla fine Report ci ha dimostrato che quelle borse a 900 euro le fanno i cinesi a 9 euro e le fanno praticamente a Sesto Fiorentino, la rivolta, tutta a cantare l'inno cinese. Però i centri commerciali ci sono anche quelli del popolo, diciamo così, e uno di questi poli commerciali più popolari è quello del centro commerciale I Gigli, che non è esattamente nel comune di Firenze, non sia mai, ma insomma è lì intorno, sempre Firenze che si espande. Campi Bisenzio, e questo, le storie sui campigiani sono bellissime. I centri commerciali come questo attirano tantissima gente, tanto che addirittura I Gigli, quando fu inaugurato, e poi per varie domeniche furono costretti a chiudere l'autostrada, eccetera. Successo, ma poi gli fecero una pubblicità, insomma, una canzoncina che era ormai entrata nell'orecchio di tutti. Ah sì? Cioè, centro commerciale Gigli, il più grande d'Italia, ecco, questo proprio c'è, cioè, in qualsiasi stazione radio la sentivi, quindi poi non lo so se è vero, che era il più grande d'Italia sul serio o no, forse sì, se no non l'avrebbero detto. Poi sai, anche lì il più grande d'Italia, virgola, perché c'ha i bagni più a norma del paese. No, no, più grande, non è discutibile. Allora, forse lo era, però secondo me poi negli anni, soprattutto nella zona della pianura padana, sono state superate alla grande Gigli, probabilmente, insomma, ma è una statistica di poco interesse, secondo me. Quello che interessa è vedere dal punto di vista sociologico chi frequenta Gigli, perché insomma è divertente notare la gente che va. Allora, provinciale noi, fiorentini, ecco, è qui tutto qui. Noi andiamo per comprare qualcosa, ci serve questo, andiamo ai Gigli. I provinciali, cioè quelli che abitano vicino, vanno proprio per passare una giornata. Allora vedi queste famiglie, è vero, queste sono, cioè guarda, se vedi la famiglia che ci sta più di 2 ore, mettici la mano sul fuoco che non è di Firenze. Ridi, è così. Allora, vedi, mamma, babbo e figlio. Allora, il babbo generalmente c'ha l'orecchino o il tatuaggio in bella vista. E niente, organizzano proprio la giornata ai Gigli. C'è il giochino per il figlio, magari poi c'è la merenda a base di gelato, c'è la spesa, cioè tipo io la spesa ai Gigli non la farei mai, ma ci sei mai stato a Panorama ai Gigli? Cioè ti ci perdi, è incredibile, cioè finisci, c'è di pure l'iPhone Store, come si chiama? Certo, anche lì c'è il mondo. Allora ecco, io quando devo andare all'Apple dico: dove vado? Piazza Repubblica o Gigli? Perché insomma ci sono due. Io ovviamente vado a Piazza Repubblica perché è vicino, ma c'è chi può partire, non so, da Massa Carrara per venire ai Gigli, all'Apple Store, perché l'Apple Store, insomma, questo sarebbe un altro capitolo. E insomma, vedi la famiglia che fa merenda ai Gigli, poi fa la spesa, poi si compra un giochino, poi magari partecipa, non lo so, a qualche attività. Poi c'è il trenino dentro i Gigli, cioè. Ah, va! Sì, così per fare un giro dentro i Gigli. E la famigliola appunto può passare questa mezza giornata così, se si diverte così, insomma, come se fosse a Follonica, insomma. E infatti, ma lo sa quando è che io li appoggio questi? Quando ci sono 40 gradi fuori, allora te ne stai mezzo pomeriggio all'aria condizionata e benvengano i Gigli. Pensa che, a proposito di centri commerciali, qui da noi fu fatta una scelta politica, cioè che tutte le strade avessero da portare al centro commerciale, tanto che si sono svuotati i centri storici e ora riempirli sarà difficilissimo. Insomma. Ma a me mi fa una tristezza sta cosa, guarda, io sono per il centro storico tutta la vita, per la passeggiata all'aria aperta, per la botteghina. Poi vabbè, sono anch'io magari tentata, mi sono andata dal centro commerciale al supermercato, però insomma, in linea di principio, dai, fa un po' tristezza sta cosa, no? Sarebbe bello se si riuscisse perlomeno a trovare un equilibrio o magari a ritornare in parte all'antico. Il fatto è che da un acquario si fa una zuppa di pesce, ma dalla zuppa di pesce non si rifà l'acquario. Ecco, esatto. Per quello che riguarda gli acquisti tanto di alimentari come di vestiario, a parte i soliti centri commerciali oppure le solite super boutique che sono nate fuori dal comune di Firenze, capita ai fiorentini di fare acquisti in provincia? Alla fine Madonna e De Niro, che erano ospiti di Sting che sta a Figline, o te c'hai vicino di casa Piero Pelù, noi sa vicino Sting dei Police, insomma giravano per Figline e si dice che Robert De Niro abbia comprato una borsa per la figlia, e poi chissà come si sono parlati con il bottegaio, mi domando se parlasse inglese. Insomma, i fiorentini fuori a comprare o da vestire o da mangiare ci vanno? Sì, soprattutto da mangiare, perché anche in base molto alla fama di un macellaio, soprattutto di una bottega particolare, si vanno lì apposta per prendere la cosa tipica. Poi mi è capitato anche, sai, di andare in vacanza che come aver voglia di comprarmi una maglietta o qualcosa, però forse questa è una cosa mia personale. Così poi mi rimane un capo d'abbigliamento, mi ricorda una cittadina, un paese che non è mio. Chissà se è una cosa solo mia o se qualcun altro pensa come me. Grande Laura! Un tipo di souvenir che però ha molto più senso della gondola veneziana. Ma con le lucine. Sì, perché poi questi souvenir, la calamita, cioè veramente non se ne può più. Invece quello, poi è solamente io lo so, non che l'ho comprata lì e mi ricorda quel posto, però vabbè, serve a me. Sagace, Laura, veniamo ai mezzi di pagamento. In Cina ormai si paga con il telefonino. In India hanno tolto il cash, per cui ora stanno dando telefonini come matti perché la gente non sa come pagare. Il fiorentino paga cash oppure con questi mezzi modernissimi? Secondo me, come voi e come tutti gli italiani, cash, cifre da 50 euro in giù all'incirca, e poi con carta di credito. Il vecchio foglio nel portafoglio, insomma, per noi ancora senso ce l'ha. Sì. Anche penso, per voi fiorentini, 50 euro se li cambi li hai finiti? Forse ancora di più che per voi, visto che qui ci spendano. E dai mezzi di pagamento al pagamento, ma col mento trecentesco, insomma, nel senso del pagare. E cioè, il fiorentino quando compra è splendido, perché io vivo in città, pur l'esempio è un po' come milanesi, uè bauce, prendi per la vecchia che tieni a casa, oppure il fiorentino comunque si riguarda e un pochino gli rode quando quegli spiccioletti o quei foglioletti o quei numeretti escono dal suo account. Ma può tornare sempre lì, e se lo ribadisco, sì, siamo un po' tirchi, è così. Non fa piacere, insomma, spendere troppo, ma soprattutto se sai che può trovare lo stesso prodotto a meno. Allora, niente, tutta la poesia del salumiere che ti fa odorare la fetta di finocchiona appena tolta dall'affettatrice viene soppiantata dall'offerta 3x2 della Coop. Ecco, ci può fare. Forse è per questo che la borsa valori è a Milano e non a Firenze, perché a Milano spendi, entra, esci, compra, acquista, mentre da noi la borsa starebbe chiusa e quindi non ci sarebbe economia. Allora è proprio il caso di ringraziare colei che, quando noi pagavamo ancora in sesterzi dell'imperatore Tiberio, lei già minava i bitcoin. Laura, grazie. Ma di niente, figurati. Se poi vuoi venire a fare shopping qui a Firenze, mi chiami e ti aiuto un po' a scegliere qualche vestito fashion. Tienimi presente, così magari mi rifai un regalino pure a me. Ringraziamo gli ascoltatori di Radio Big World. Voi però non avrete il privilegio di avere Laura che fa finta di aiutarvi a andare alle botteghe e vi fa spendere un trono. Pertanto accontentatevi delle sue parole. Vi ringraziamo di essere stati con noi e vi rimandiamo alla prossima fiorentinata. Olè.